Attenzione, canale 10. Attenzione 10. nessuno sul canale 10 per una prova radio? C'è nessuno sul canale 10 per una prova radio? 1, 2, 3, 10, canale 10, 1, 2, 3, 10, c'è nessuno? Prova radio, c'è nessuno sul canale 10? Sì, vieni avanti, dai, che stai mettendo portante se vuoi venire avanti, se no fatti un giro. Va bene, QRT. Attenzione 10 per un controllo. Attenzione 10. 1, 2, 3, 4, 10. C'è nessuno sul canale 10? C'è nessuno sul 10? 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. C'è nessuno? C'è nessuno sul 10? 1, 2, 10. 1, 2, 10. 1. 1, 2, 10. Dieci, dieci, uno, due, dieci, uno, due, dieci. Attenzione, dieci, attenzione, dieci. Uno, due, tre, prova, dieci, dieci, Roberto. Uno, due, tre, quattro, dieci, c'è nessuno? Sì, c'è nessuno, 1, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 10, attenzione al canale 10, 10 prova, prova 10, c'è nessuno, 10 per una prova, 10 prova, 10 prova, 1, 2, 3, 10 prova, prova, 1, 2, 10 prova. Fischiando 1, 2, 3, prova. Attenzione 10. Canale 10. Avanti, canale 10. Ciao Fabrizio. Adesso sto fischiando? Adesso no. Ma è molto bassa la radio? 3, 5, pulita e amplificata. Ho così invece sta fischiando, vero? Adesso no, prima sì. Adesso sta fischiando in questa maniera, 1, 2, 3 prova. No, ma sei arrivato troppo forte. Abbassa un po'. Adesso ho abbassato, 1, 2, 3 prova, abbassato. Adesso è così. Ascolta, se io gli do un po' di eco, così inizia a fischiare qualcosa, vero? No, non fischia ancora. C'è il fischio ora così, vero? Con l'eco? Sì, sta fischiando con l'eco. L'eco com'è? Funziona bene? C'è solo un fischio sotto, vero? L'eco fa bene, però sta fischiando. Cosa intendi per fischio? Come un rumore di fondo? Va bene, quindi come lo elimino. Va bene, dai, allora devo lavorare su quello, quindi non c'entra niente, c'è qualche problema di massa. Ok, ti ringrazio. Niente, Fabio, vai tranquillo. Thank you. dimmi dove mi sistemo la roba, la spesa, arrivo subito, grazie. Che peccato, frate, tu da posto, sto già da controllo, cambio. Che peccato. Sezione 10, canale 10, devo entrare. Stavo facendo altre cose, avanti su 10, chi c'è? Brutta, c'è un solo luce, mamma mia. Nel frattempio. Cosa? Ho detto, nel frattempio. E a proposito del tempio, ho visto poco fa il furgone del tempio, Salvatore Secchi, l'ex presidente della torre, sino a pochi mesi fa, si è comprato il tempio e vuol farsi di là, non lo so cosa vuol fare, e l'ho visto adesso col furgone, forza al tempio, bello, nuovo, appena comprato deve essere blu, con la scritta forza bianco blu, forza al tempio. E vuol dire, vai di là a farlo. È un imprenditore, Mario, lui ha trovato il coso di lì, come ha fatto con la torre, si sarà tenuto un paio di anni e poi si è venduto il titolo a questi di Abinsula, quelli già ce li hanno i soldi. Speriamo che portino bene alla Torres, perché meritiamo minimo la Serie C, per non dire anche la Serie B, perché è l'unica squadra, è la città d'Italia che per numero di abitanti non ha mai partecipato al campionato di Serie B. La prima c'è la classifica di squadre che non hanno mai fatto un campionato di Serie B per abitanti, per numero di abitanti. È la prima, ci sono paesetti che non vanno in nulla, sono arrivati pure in Serie A. Aspetta un attimo, Robe, che abbassi un sugo. Eia, ok, vediamo un po', qualcuno su 10, avanti che vuole entrare. Ora, attenzione 10. Ora. Cicco 10. No, un attimo, ma cicco 10. Cicco canale 10, cicco, no. Che avanti. Ciao, chi sei? Chi sei? Sei Roberto. Sì, già qua, perché sei così basso? No, perché sono con un'altra antenna. Sono con il tipolo. Sto provando perché ero da un'altra parte e ho avuto qualche intoppo. Basso quanto, per curiosità? Superi 9.10, con i picchi arrivano quasi a 9.15. La radio c'ha qualche problema? Senti un po' se senti dei sottofondi. Si sente una ventola in lontananza, ma non è fastidiosa. Ok, che cosa strana. Mannaggia. Vabbè, cosa che capitano. Sì, è un paio di giorni, non ti senti mai fatto, totale, non ho sentito a Gianfranco, c'ha due o tre giorni, ci hanno sentiti forse una settimana, quando ci hanno sentiti buon lunedì o martedì? C'ho un sacco di impegni, quindi che tra com'è. Ascolta, ti farebbe bene cambiare canale un attimino, perché mi devi dare una prova, cioè devo sfruttare la tua esperienza nel campo deludibile. Sì, sì, dimmi un po'. Anche il canale 1 mi andrebbe bene, tanto non ci sono problemi, giusto per avere una prova un po' fedele. Andiamo sull'1 allora, dai. Esecutivo. Oh, là. Thank you. adesso ho cambiato radio, dai, un'altra superiore a quella di prima. Qua possiamo andare bene in banda laterale perché spinge parecchio, mi sono anche ascoltato, mi hanno registrato, ho fatto la prova e c'è una bella modulazione in banda laterale. Prova un po'. Beh, ci sei.